La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. A rispondere alle lettere arrivate nell'ultima settimana c'è Felipe Armanelli, un medico brasiliano, nipote di italiani, che ci manda una amabilissima lettera in cui invita Gloria Guerrera e me, quando proprio non avessimo più un rifugio in Italia, ad andare a stare in Brasile. Grazie, terremo presente la sua offerta, forse presto. Un ascoltatore di 37 anni, Andrea, scrive una lettera dove parla della sua relazione, nella quale io e la mia compagna non abbiamo mai fatto progetti, non ci siamo mai fatti promesse. Ci siamo messi insieme perché stavamo bene e siamo consapevoli che potrebbe non essere una situazione eterna. Questo modo di vivere e intendere la coppia ci permette di essere franchi l'uno con l'altra. Ci diciamo tutto quello che ci passa per la testa. E se e quando siamo attratti da quest'uomo o da quell'altra donna, e perché, quando ci sentiamo lontani, e perché. Una relazione ricca di dialogo, provocazioni e fantasie mentali. Dopo invece dice: da qualche tempo sento una lontananza da parte sua verso di me, credo perché siamo molto diversi. Insomma, lui vorrebbe andarsene da Pavia, la città dove abitano, che considera una città priva di identità, e andare in una città più umana. Lei invece vorrebbe andare a stare nella zona più bella e costosa della città, considera altre sistemazioni provinciali e quindi non le piace. Scrive Andrea: in generale lei è sempre in cerca di posti eleganti e costosi, io alla ricerca di minimalismo e tranquillità. Forse sarebbe il momento di lasciarsi? Ma ecco il dubbio. In vacanza ci piacciono gli stessi ambienti. Per motivi diversi, amano le stesse cose, per motivi lui più, diciamo, più politicamente corretti, lei più frivoli. Ma a questo punto, Andrea, a me sembra che il consiglio sia molto semplice. Vedetevi durante le vacanze. Se siete così liberi, invece di insistere in una convivenza che non fa che esasperare le differenze tra di voi, fate un ultimo tango a Parigi allargato, ovvero sia una parte dell'anno in cui fate insieme l'unica cosa che vi metta completamente d'accordo. Visto che siete così spregiudicati, avete superato tanti luoghi comuni, superate quello del fatto che bisogna fare una convivenza totale. Pensa che emozione vedersi due mesi all'anno, senza stare a misurare le proprie differenze, che a quel punto diventano una ricchezza. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Sul mio topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e apporta un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla topolino amaranto si staccano in canto 46. Questa canzone di Paolo Conte ci introduce all'argomento di oggi, il libro di Sandra Petrignani, Addio a Roma, uscito con Neri Pozza. Per dire cos'è questo libro, comincerei con i versi di Heather Pound. Mia città, amata, candida, ah snella, ascolta. Ascoltami e in te infonderò un'anima, delicatamente sulla zampogna, dammi ascolto. Ora so bene che sono pazzo, poiché qui c'è un milione di persone rese rozze dal traffico, né questa è una fanciulla, né saprei suonare una zampogna se ne avessi una. Città mia amata, sei una fanciulla senza seno, sei snella come una canna d'argento, ascoltami, dammi ascolto, e in te infonderò un'anima e tu vivrai per sempre. Ho cominciato con la poesia che Heather Pound dedica a New York, per questo verso soprattutto, e in te infonderò un'anima e tu vivrai per sempre. È quello che ha fatto Sandra Petrignani con questo libro, Addio a Roma, raccontando la vita artistica della città intrecciata alla storia d'Italia dal 1952 all'assassinio di Pasolini nel 1975. Roma non è una fanciulla senza seno, neanche snella, è una grossa damona, opulenta, ammiccante, corrotta, dai grandi seni, col trucco pesante un po' sfatto. E in essa Sandra ha infuso un'anima più lieve, più dinamica, con un soffio di generosità romantica. Il motivo per cui questo libro mi piace immensamente è anche questo, perché è un libro che racconta la realtà, ma è anche un libro visionario. Lei ha raccontato Roma come Parigi. Perché certo conta la documentazione immane del libro, la precisione storica, ma conta soprattutto lo spirito di chi l'ha scritto. La storia esiste soltanto perché qualcuno la vede. E Sandra Petrignani ha resuscitato quegli anni con una capacità narrativa che esalta e consola. Il libro è anche andato molto bene, ha avuto molti riconoscimenti sui giornali, ha venduto molte copie e l'unanimità di solito è sospetta, ma qui accompagna la forza del testo, perché questo libro ha dentro un potere incendiario nel presentarci Pasolini, Fellini, Parise, Moravia, Dario Bellezza, Elsa Morante, Carlo Emilio Gadda, Arbasino e via dicendo, o anche De Chirico, o anche Marco Bellocchio, Paola Pitagora, testimoni protagonisti che ancora camminano per le strade dissestate di questa città e non hanno protestato, anzi hanno riconosciuto l'autenticità del libro. Che ha questa leggerezza profonda, questa scrittura luminosa, con un ritmo che ti trascina come in un grande ballo. Io da non guardare dal finestrino, che c'è un paesaggio che non va, è appena finito il temporale, 6 case su 10 sono andate giù, meglio che tu apri la capote e con i tuoi occhioni guardi in su. Beviti sto cielo azzurro e alto, che sembra di smalto e corre con noi. Però dei libri deve parlare chi li ha scritti. Per questo che abbiamo chiamato Sandra Petrignani e ho la fortuna di averla qui al Faro, tra i gabbiani. Buongiorno a tutti. Buongiorno Sandra. Allora, questo libro ha in copertina questo volto severo da falco, da aquila, di Palma Bucarelli, questa donna audacissima, scopritrice di talenti artistici. Ci racconti un po' cos'è stato questo libro? Tra l'altro c'è una cosa che vorrei chiederti, so che tu l'hai scritto molto velocemente, come se fossi posseduta da questi fantasmi prima che ti scappassero via. Devo dire che questa parola posseduta è quella giusta. È un libro su cui ho lavorato parecchio, naturalmente per documentarmi, prendere appunti. È anche un bel volumone. Sì, è venuto fuori di parecchie pagine, però poi l'ho scritto in 3 mesi scarsi e, come dicevi tu, posseduta, nel senso che ero veramente circondata dai fantasmi e in particolare da Palma Bucarelli, me la sentivo vicino e quasi a suggerirmi tanti passaggi, soprattutto il rapporto fra letterati e artisti, perché quello che volevo fare era proprio un affresco in cui queste figure, la maggior parte non ci sono più, ecco, volevo renderli vivi, volevo riportarli in mezzo a noi come in una seduta spiritica, effettivamente. E soprattutto ritrovare quei legami, oggi del tutto scomparsi, di quella che era la società letteraria e artistica di una volta, cioè in cui i cineasti, gli scrittori, i poeti, gli artisti si incontravano in quei luoghi deputati che erano certe osterie, certi bar, certi caffè, e si incontravano per caso senza darsi appuntamento, ma lì poi discutevano a tavola mangiando una carbonara, poi discutevano dei libri che stavano scrivendo, dei film che avevano in mente, dei loro progetti, dei quadri che volevano dipingere, in una osmosi meravigliosa, in uno scambio che per noi oggi è un sogno solo pensarci. Dal primo capitolo, appunto, siamo nel 1952, fu l'anno che vide l'Italia, appena cicatrizzata e come sempre poverissima, esplodere fuori dai suoi confini in un'atmosfera di festa intelligente e stracciona, dice Irene Brin, che si definiva specialista in frivolezze. La festa comincia pure dalla scoperta del Made in Italy, dopo che una grande sfilata fiorentina a Palazzo Pitti, riservata ai sarti italiani, li sprona a non dipendere più dai francesi. Le occasioni della moda si moltiplicano e finalmente la guerra, con i suoi detriti, è davvero dietro le spalle. La gente vuole dimenticare, vestirsi bene, andare al cinema e fare baldoria. Si ha bisogno di credere nella felicità che coinciderà negli anni a venire con l'acquisto di un frigorifero, della Fiat 600, della lavatrice. Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46. Un litro vale 1 chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va? l'auto che comodità. Sulla Topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E questa Roma che tu descrivi che è il cuore dello spettacolo. Dopo la guerra tutto viene sognato diverso, almeno dalla borghesia smaniosa di rifarsi. Nuovo, pulito, inedito, e tutti ballano. Foxtrot, Mambo e il nuovissimo Cha Cha Cha, Renato Carosone al pianoforte, Gigi Di Giacomo alla batteria. Sulla Topolino amaranto si va anche un incanto nel 46. Insomma, questo libro fa venir voglia per il presente. E alla fine è un libro di speranza. Sandra, diceva Irene Brin, appunto, una festa stracciona, e tu parli di quando gli artisti erano poveri. I più poveri di tutti erano gli artisti, che, se si escludono le divinità Giorgio De Chirico e Renato Guttuso e i pochi ricchi di famiglia, facevano la fame, fame vera. Avevano gli studi in via Margutta o al Babuino, perché allora il centro di Roma era scalcinato e malfamato, seminato di bordelli. I benestanti abitavano i parioli, gli studi erano gelidi, e i pittori si adoperavano per difendere i quadri dall'umidità. Non erano sconosciuti, molti avevano già un nome e magari un'opera appesa in qualche museo. Nella nostra immaginazione la bohème è sempre parigina, no? È tutta francese. E invece rileggere... Avevamo i poveri anche noi. Anche noi avevamo questa bohème. E, per esempio artisti come Carlo Accardi, Totò San Filippo, Pietro Consagra, Giulio Turcato. Se non ci fosse stata l'osteria Menghi in via Flaminia, che faceva credito a questi artisti, si contentava poi di un disegno sulla tovaglia, si sono messi a un certo punto a fare dei murales dentro al ristorante per ricambiare questi fratelli, ma questi facevano la fame, cioè dovevano scegliere. Si accontentavano di un disegno di Turcato. Beh, che non era Turcato, però, capito? Sono stati bravissimi, certo. Perché poi naturalmente si sono fatti ricchi, perché tutti questi artisti sono diventati poi famosi e naturalmente hanno ricambiato con i loro quadri ormai di gran nome questi due host. No, di romani. Che li avevano sfamati perché loro veramente dovevano decidere fra comprare i colori per fare i loro quadri o mangiare, e questo vivevano appunto negli studi via Margutta, ma non pagavano l'affitto, stavano nel freddo assoluto in mezzo alle muffe dovendo proteggere i loro quadri da quest'umidità. Per esempio c'è la storia di Turcato, che si era innamorato di un'ex attrice dei Telefoni Bianchi, la quale era un po' capricciosa, e allora abitavano a via del Babuino e la mattina lei voleva assolutamente un cappuccino. Allora il povero Turcato, ancora assonnato, col cappotto, se lo ricordano ancora dei suoi contemporanei, e col pigiama sotto, aveva il loden e le pantofole, se ne andava per via del Babuino a cercare queste 100 lire, 50 lire per poter comprare questo cappuccino, se no era la fine del mondo. E certe volte non gliele davano, non le prestavano subito, tornava un po' troppo tardi, e questa sua amante si arrabbiava pure, gli faceva scenate perché aveva paura che lui fosse andato in giro con qualche altra, capito? Faceva scenate di gelosia tremenda. Queste storie non sempre io le ho trovate nei libri, nelle autobiografie, nelle biografie, perché purtroppo abbiamo una tradizione noi molto accademica, capito? Molto accademica, dove non ci sono belle biografie, non ci sono memoir. E infatti sono molto grata a Paola Pitagora, che ha scritto un delizioso libro sugli artisti della sua generazione, la famosa scuola di Piazza del Popolo, in un libricino Sellerio che si chiama Fiato d'artista, in cui lei racconta la sua giovinezza di aspirante attrice innamorata di un aspirante pittore, Renato Mambor, ed è un libro veramente interessante, importante, però è rarissimo, perché noi non abbiamo quella tradizione che invece conoscono perfettamente gli anglosassoni e anche i francesi, di belle biografie, no? Tu leggi una biografia dove l'autore salta fuori dalla pagina e ce l'hai lì in una dimensione reale. No, da noi viene considerato un po' pettegolezzo. Infatti a me dà molto fastidio quando, recensendomi, devo dire tutte recensioni importanti, belle, però alcuni hanno sentito il bisogno di dire, di avvertire il lettore, attenzione, non sono pettegolezzi. Ma come sarebbe? Ma neanche ci devi pensare, non si tratta di pettegolezzi quando racconti la storia. Sono i fatti, è la vita. Topolino, Topolino, Topolino amaranto si va che l'incanto è 46. La guardiana del faro. Qui al Faro c'è ospite oggi Sandra Petrignani e con lei stiamo parlando del suo libro intitolato Addio a Roma, che fa rivivere la vita artistica della città dagli anni 50 fino al 1975, quando viene assassinato Pasolini. Si è spento il sole nel mio cuore per te, non ci sarà più un'altra estate d'amore, i giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Mi dicevi poco fa, Sandra, che da noi non c'è questa tradizione della bella biografia e che viene considerato quasi pettegolezzo la notizia, la sacrosanta notizia sulla vita, sulla persona di un artista. E parlavamo della grande inimicizia che c'era fra Giorgio De Chirico e Palma Bucarelli, che lo considerava un sorpassato. Sì, Palma Bucarelli è stata per un trentennio la sovrintendente della GNAM, della Galleria d'Arte Moderna a Roma. Aveva un'idea dell'arte sempre innovativa, lei guardava sempre al futuro, puntava su nuovi artisti, quindi per lei Guttuso e De Chirico erano dei la retroguardia. Esatto, proprio dei grandi maestri, però del passato, avevano dato il meglio, non ci si aspettava più una grande emozione dalla loro opera e quindi non pensava interessante dedicare a loro delle mostre, insomma preferiva promuovere uno come Burri, per esempio, che da molti era osteggiato, ridicolizzato. Come la chiamava De Chirico? Come la regina degli stracci? No? L'amazzone delle croste la chiamava, era uno dei suoi insulti, veramente De Chirico la detestava e non la poteva sopportare, e era anche umiliato da questa signora così sicura di sé, così potente e così quindi chic, che riesce addirittura a rifiutare di farsi fare il ritratto da Picasso, che è un Picasso già di 70 anni, quindi è un nome da moltissimo tempo. Sì. È ospite a casa sua, lui le chiede, invaghito chiaramente di questa amazzone, perché era molto maschile, aveva qualcosa veramente della razza padrona, diciamolo, ce l'aveva proprio, e lei dice: mi spiace, mi aspettano, e parte. Sì, poi se n'è pentita tutta la vita, diciamo anche questo. Però è un gesto che vale una biografia, Sì. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi, pur se l'estate è finita, t'amo quando nel 53 Palma Bucarelli dedica una mostra grandiosa a Picasso, che era già Picasso, però in Italia soprattutto molti non lo capivano, soprattutto i comunisti, cioè soprattutto anche i democratici, i cristiani non lo capivano ovviamente, però ci si stupisce magari che... No, non ci si stupisce, perché loro erano sempre rimasti al realismo socialista, esatto, voglio dire. Sì, non sì. Sono... Però no. Picasso era iscritto al partito aveva fatto anche quel ritrattino di Stalin. Sì. Che non era piaciuto molto. Beh, era morto Stalin e avevano chiesto a Picasso un ritratto da mettere sui giornali, e Picasso ha buttato giù un ritrattino che effettivamente è molto sorprendente, perché fa questo faccino di uno Stalin giovane, coi capelli tutti ispidi, che sembra un po' un pupazzetto, un fumetto, e allora naturalmente lì i comunisti si sentono presi in giro, insomma. Quindi c'era tutta una polemica in quel momento intorno a Picasso, e la Bucarelli invece gli dedica una mostra che non solo è importante perché è una mostra grandiosa, ma lei riesce a promuoverla con un sistema molto moderno, per cui a questa mostra poi andranno non solo gli artisti, i critici, tutti gli esperti, ma per la prima volta i romani, cioè ci va gente che aveva letto sui giornali quanto era importante questo evento, ci vanno dei curiosi, e allora diventa quello che oggi, scusatemi il bisticcio della parola, chiamiamo l'evento culturale. È forse la prima volta che a Roma si vede qualcosa del genere. E De Chirico si arrabbia moltissimo. Vi leggo questo pezzetto dal libro. Il leone De Chirico era inferocito e ruggiva, era invidioso e non lo nascondeva. Da mezzo secolo che si fanno mostre su Picasso, nessun capo di Stato di nessun paese si è mai scomodato per inaugurarne una, scrive sul giornale di Napoli nel maggio del 53, perché il presidente era andato ed era Einaudi. e poi sulla rivista satirica Il Candido se la prenderà con lo stesso Picasso, virgolette, con la sua estrionesca, cafonesca insolenza, chiuse virgolette. Che doveva essere perfettamente vero, tra l'altro. Per la mancata presenza all'omaggio che Roma gli ha tributato, perché dice la leggenda che andò in incognito per non avere tutta la stampa addosso. Sì, sì. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Quando un altro dal mio cuore ti rubò, innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò. E intanto arrivava anche Pasolini a Roma. E tu riporti queste parole, tu sapessi di Pasolini, tu sapessi cos'è Roma, in una lettera a Giacinto Spagnoletti, tutta vizio e sole, croste e luce, mentre all'ex fidanzatina e amica di una vita, Silvana Mauri, la donna che avrei potuto amare, ormai già moglie dello scrittore Otti Rottieri, descrive una Roma cinta dal suo inferno di borgate. Pasolini arrivò a Roma nel 50 e finché non trovò lavoro a Ciampino come professore in una scuola media, faceva veramente la fame come gli artisti, come un po' tutti gli intellettuali, se non quelli nati bene, ma era forse uno, ecco, Moravia, che aveva avuto un successo giovanissimo, era di buona famiglia, figlio di un architetto, quindi non se la passava così male, ma per la maggior parte erano tutti molto poveri. Allora vediamo questo Pasolini veramente misero, senza soldi, che la notte però va in giro per scende, incontra Sandro Penna, sì, e fa questo, perché vanno a battere tutti e due la notte, sì. E insieme si scambiano versi, si fanno a gara di a chi rimorchia più ragazzi e nasce questa amicizia. Pasolini era una persona molto aperto alle amicizie, ha avuto delle amicizie importantissime, alcune sono anche finite male, ma non per colpa sua, quella con la Morante, quella con Fellini, sì. Essendo lui il più giovane, ha sempre avuto verso Sandro Penna un atteggiamento di protezione, molto tenero, ecco, veramente commovente questa amicizia fra Penna. Infatti e Pasolini. Tu scrivi, in una di queste notti che si imbatte in un personaggio stravagante, Sandro Penna, con il quale ingaggia una gara a chi conquista più ragazzi, o forse no. E questa è solo una leggenda, perché i due poeti intrattenevano con l'omosessualità rapporti agli antipodi. Uno amava gli amori di gruppo, cioè Pasolini. L'altro, Penna, stabiliva relazioni più profonde e paterne. Ma certo, se ne andavano vagando insieme, rimorchiando adolescenti, scambiandosi versi. C'è anche un personaggio vivo, inventato. E questo personaggio di Ninetta è l'unico personaggio importante totalmente inventato, no? Però io sono stata attenta a dividere quando il libro, in modo che il lettore sa sempre quando si trova nella parte storica, diciamo, del racconto, cioè dove tutto è documentato, tutte le virgolette, le frasi fra virgolette sono assolutamente vere, cioè sono state pronunciate sul serio, scritte nei libri di questi scrittori. E poi c'è una parte più piccola di fiction in cui si muove una ragazzina che si chiama Ninetta, in omaggio a Ninetto Davoli, perché ho pensato a una figura leggiadra come Ninetto Davoli nel cinema di Pasolini. Allegria, innocenza. Sì, innocenza, uno sguardo puro, insomma, sulle cose, e una leggerezza così anche piena di ottimismo e di speranza verso il futuro. Ninetta ha 12 anni all'inizio del libro, ne avrà 36 alla fine, è una ragazzina trasteverina, figlia di baristi, quindi che ha dovuto anche lasciare la scuola per aiutare al bar. Quindi poco colta, però appassionata di letteratura, ha una professoressa che continua ad educarla e vuole diventare una poetessa e poi vuole diventare una scrittrice. Allora seguiamo queste avventure di Ninetta, una picara che attraversa la storia, che poi va a lavorare per Palma Bucarelli, le porta fuori il cane, poi Palma Bucarelli si affeziona a questa ragazzina, l'aiuta, la presenta ai Moravia, a quelli che frequentano i suoi amici, quelli che frequentano Carlo Levi, che frequentano casa sua, e piano piano anche Ninetta si fa strada, finché alla fine proprio il giorno dei funerali di Pasolini, lei vede finalmente pubblicato un suo libro, vede in una vetrina di libraio, e lì è un po' il senso che ho voluto dare al libro, sì, che quella Roma non esiste più, le abbiamo detto addio, però si continua a scrivere e Ninetta è colei che passa il testimone all'oggi, insomma è il ponte fra queste due epoche. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi, pur se l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Quando un altro dal mio cuore ti rubò. La guardiana del faro. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola. Sono qui con Sandra Petrignani a parlare del suo libro Addio a Roma, dove c'è questa visione di una Roma che diventa Parigi. Io non provo neanche a raccontarlo perché sarebbe come raccontare la storia delle crociate, voglio dire, cioè è attraversato da... Bisogna leggerlo, devono leggerlo. Bisogna leggerlo. E ci sono due donne che attraversano il libro e lo dominano, e sono Palma Bucarelli ed Elsa Morante, due zarine. Eh sì. Palma del potere artistico, Elsa in una santità caparbia e distruttiva, la mondana e la mistica. Palma Bucarelli col talento di scoprire i talenti, in eterna polemica col PC che, come dicevamo prima, così bigotto in arte sempre, e Elsa Morante, la gelosa universale, che sposerà Moravia, gelosissima e che in amore è la prima a tradire. Ci racconti l'incontro tra questa ragazza selvaggia e Alberto Moravia. Alberto Moravia era giovane ma era già molto famoso. Si incontrano nel 1936 e, come dicevi tu, sono due personalità diversissime, a cominciare dalle famiglie da cui provengono. Lui è di famiglia ebrea, ricca, ha avuto successo giovanissimo, quindi non ha più neanche il problema di imporsi, è già una leggenda. E lei viene da una famiglia tormentata, non è figlia di suo padre, ha questa madre che da una parte la spinge ma con cui litiga, vive in questo, finché non se ne va di casa, a Testaccio, che allora era un quartiere malfamato di Roma, era il quartiere operaio, proprio poverissimo. E poi comincia a scrivere per il Corriere dei Piccoli, finalmente si mette fa delle convivenze, insomma va a vivere al centro di Roma, e quando le capita, appunto, si conosce Moravia a una festa, probabilmente vengono presentati da amici pittori, perché tutti e due frequentavano volentieri i pittori. Lei vede in Moravia il destino, il principe azzurro, perché Moravia incarnava tutto quello che lei voleva essere, quindi probabilmente si è innamorata anche dell'idea di Moravia. Moravia viene sedotto, è molto tenero, ecco, io ho cercato di rendere di Moravia, che ho conosciuto, quindi credo di essere riuscita a far passare anche dei suoi vezzi, un modo di fare, certi gesti che lo rendevano un uomo dietro a quella sua bruschezza che di un'amabilità infinita. In realtà era molto amabile, vero? E brusco e amabile, incantevole, ecco, siamo d'accordo. E quindi lui resta sedotto da questa ragazza che era molto carina, aveva questi occhi molto viola, pazza, probabilmente lui poi è sempre stato attratto dall'enigma della donna, no? E quindi più erano stravaganti e più veniva attratto. E poi lei fa questo gesto che possiamo immaginare quanto erotizzasse subito Moravia, che gli fa cadere nella tasca le chiavi di casa sua. È audacissimo per l'epoca. È audacissimo, siamo 80-90 anni fa, sì. No? Quanti sono? E quindi questo poi li lega, poi la determinazione di Elsa a sposarlo. Lui lo vediamo sempre un po' riluttante, ma in fondo Moravia, e chi l'ha conosciuto può ricordarlo, si lasciava condurre. dal gioco erotico di una donna. E poi però scenate da pazzi. La verità è che lei è un po' invidiosa di Moravia, perché io credo che da tutte le testimonianze viene fuori che la Moranti, anche dal tuo libro, si è sempre creduta la più grande scrittrice del mondo dall'inizio della scrittura, per cui doveva essere anche nervosa del fatto che in verità la fama ce l'avesse il marito, quindi una specie di disprezzo ed invidia. E poi si infuriava terribilmente se qualcuno, per esempio negli alberghi, la chiamava la signora Moravia. Lei faceva delle scenate a questo povero uomo. A lui, non all'incauto direttore dell'albergo, ecco. E poi insomma tutti testimoniano di scenate epiche nei ristoranti. E infatti c'è quella scena molto bella quando loro scappano perché c'è Roma invasa dai nazisti, sono entrambi ebrei e quindi prendono il treno per scappare, e a un certo punto lui ha la tentazione di liberarsene. A un certo punto le dice, cioè non la vuole neanche nel momento del pericolo, comincia a vedere le montagne verso Gaeta e comincia a dire: senti, ma perché non torni indietro? Perché lui si è già visto come uno stambecco correre su per le rocce senza di lei, ma lei non molla. E sorprendentemente poi lì, poverissimi, ricercati, con la morte a un passo, però c'è l'unico momento forse di intimità fra loro, in questo loro nascondiglio a fondi, e tale l'indigenza che devono scegliere tra l'igiene e la letteratura e decidono di nettarsi con i libri che hanno lì, e quindi hanno questo tormento e anche questa voluttà però di adoperare per igiene personale pagine di Delitto e Castigo o di Guerra e Pace. Eh sì, ed è un momento poi di tenerezza nel loro rapporto che fu invece proprio all'insegna del tormento, cioè un rapporto che però appunto svanisce subito appena tornano normali, svanisce subito. Sì. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sei così. E nel tuo libro si capisce molto bene che sollievo sia stato poi per Moravia incontrare Dacia Maraini, principessa, beneducata, bellissima, grande viaggiatrice, lunghe gambe, grande viaggiatrice. E poi lui la desiderava, perché la Morante mai, pare, stando al tuo libro, ma anche a Dario Bellezza, lui aveva tenerezza e un senso di colpa che lei gli aveva messo. E poi con Dacia Maraini non si sono più lasciati per 20 anni, e la Morante non gli ha mai concesso il divorzio con la scusa della religione, perché lei era monoteista, nel senso che al centro c'era lei come divinità. E quando però si racconta di Moravia che sarebbe stato crudele nei confronti della Morante, no? Soprattutto negli ultimi anni, e io vorrei invece ricordare che lui l'ha mantenuta tutta la vita. È stato generosissimo. Viveva Elsa in 3 appartamenti che le aveva regalato Alberto Moravia. E quindi lei da vecchia diventa la regina di una corte ristretta, dove non fa che combinare esili, sospensioni, a volte definitivi, come nel caso di Dario Bellezza. C'è un'altra cosa interessante nel tuo libro, a proposito sempre di Elsa Morante. Tu racconti la parte che lei ha avuto nella separazione fra Ninetto Davoli, ecco, e Pasolini. Ecco, a proposito poi di grandi amicizie, era una grande amicizia anche quella fra Pasolini e Elsa Morante. Avevano per esempio in comune la musica. Elsa Morante era una grande esperta di musica classica e Pasolini amava imparare, amava coltivarsi, e imparava molto dalla sua amica Elsa. Anzi, spesso utilizzava i consigli di Elsa per le colonne sonore dei suoi film. E c'era fra loro proprio una quotidianità, ecco, di rapporti, di scambi. Anche i messaggi che si scambiano, le lettere sono sempre molto affettuose. Però Elsa Morante aveva questo difetto: era gelosa di tutti, e quindi quando vedeva, intuiva una crepa in una coppia, era bravissima ad accentuare quella crepa e si metteva in mezzo alle coppie. E fa così con Ninetto. Lei forse aveva anche intuito che Ninetto Davoli non era un vero omosessuale. Questo ragazzo stava crescendo, gli piacevano le donne, lei lo spingeva a fidanzarsi, non facendo alcun piacere a Pasolini, che per Pasolini Ninetto invece era tutto, perché non era solo l'unico ragazzo di cui forse si è veramente innamorato, ma per lui Ninetto era anche un figlio. Ed era l'ispirazione. Era anche l'ispirazione. Era troppo per permettere a questa sua amica di minare una relazione così importante, anche se forse la fine dell'amore fra lui e Ninetto era un po' inevitabile. E quando Ninetto comunica a Pierpaolo che si è fidanzato, che si vuole sposare, per Pierpaolo crolla un mondo, diventa veramente matto, è ferito nel profondo, addolorato, si trovava in Inghilterra a girare, mi hanno raccontato che ha distrutto la stanza d'albergo, poi gli amici l'hanno naturalmente, hanno risarcito l'albergo, hanno messo tutto a tacere, l'hanno protetto, gli sono stati intorno perché poteva fare del male a se stesso, insomma, quindi era veramente fuori di testa. E lei no, lei lo rimprovera, anzi, perché gli dice: allora tu non lo ami, chi ama pensa al bene della persona come amata. L'ha fatto lei con Moravia. Esattamente. E allora lì si rompe l'amicizia. E probabilmente Pasolini, quando poi stronca il romanzo forse più famoso di Elsa Morante, La Storia, lì si può leggere come un'operazione di vendetta, ecco, consumata a freddo e tremenda. La Morante ne fu totalmente distrutta, perché credeva che anzi La Storia sarebbe stato un libro in fondo molto pasoliniano, che doveva piacere al suo amico Pierpaolo. E invece a Pierpaolo o non piacque, o forse sentiva anzi invaso un campo che era il suo, no? Quello della miseria, del popolino, dei ragazzi poveri. E comunque, insomma, questo romanzo non gli piacque e lo trattò malissimo. E, ecco, e questo è forse l'atto finale di questa amicizia. E però bisogna dire che quando Pierpaolo fu ucciso in quel modo terribile, la Morante ne fu distrutta, ecco, non era un odio, una inimicizia che arrivava, che andava oltre la morte. Un altro momento indimenticabile è quando arriva questo cigno sapiente dagli occhi azzurri, che è Ginevra Bompiani, che è artista, figlia di Valentino, ha 19 anni, basta, troppe ne ha. Bellissima. E quando si incontrano, bellissima, e quando si incontrano da questi amici e giocano al gioco dell'assassino con Pasolini, e bisogna dire le motivazioni, la Morante chi vuole uccidere? Vuole strozzare Ginevra, e glielo dice tranquillamente perché era molto sincera. E la motivazione? Il motivo era che aveva una gola troppo bianca, troppo bella. Troppo bella. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.